benvenuti ad un nuovo appuntamento con Simi Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Multimedia. Simi Radio sta presentando la trasmissione ogni venerdì alle ore 21 e di ripresa sabato alle ore 12. Se invece avete perso uno dei punti con i numeri, vi consiglio di visitare il sito calabriamedia.org, dove troverete tutte le nostre vecchie appunture. Parleremo poi di ambiente, infatti il 29 di ottobre è stata indetta dalla rete di Difesa del Territorio Franconistico una manifestazione per dire basta al carbone a Salini Bianche. E infine ci occuperemo di un autentico scandalo della scuola italiana, che ha solo un'istruzione. Continuate ad ascoltare il Radio, continuate ad ascoltare le ti stringo nel petto e faccio dispetto al tormento che ho dentro. Io vivo per te e nel tuo letto mi sento protetto dal tempo che scuola e chiede di me. Prima che il vento porti via questo mondo che è attivo, fragile armonia. Depressione. In particolare vogliamo ricordarvi quello che è accaduto a Bologna il 22 ottobre scorso. Vi diamo dunque lettura di un comunicato comparso su Inimedia Lombardia. Leggiamo dunque che intorno alle 14 del 22 ottobre un dispiegamento delle forze dell'ordine composto da una trentina di Digos con due camionette, celeri e artificieri a seguito sono entrati all'interno della casa che ospitava l'incontro, ovvero una tre giorni chiamata Sentieri di Guerra, tre giorni sulla liberazione totale. Dunque è stata effettuata all'interno di questa casa privata una perquisizione a tappeto legittimata dal 41 TULPS, ossia ricerca di armi, esplosivi e droga, nella quale possono essere effettuate qualsiasi tipo di identificazione e ricerca senza mandato. Dunque le forze dell'ordine hanno provveduto ad eseguire perquisizioni dell'abitazione privata e delle automobili, oltre ai soliti posti di blocco e alle identificazioni. Addirittura, leggiamo ancora in questa nota, una ragazza fermata nelle vicinanze è stata condotta in un agriturismo adiacente per procedere ad una perquisizione totale all'interno di una stanza.